24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:21 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Riparte una settimana di 24 mattino, ben ritrovati. Oggi nel nostro sondaggio parliamo di asili nido, nel senso che prendiamo spunto dalla notizia di cronaca, l'ultima, di Pinerolo, dove ci sarebbero stati presunti maltrattamenti in un asilo nido. Non è il primo caso, ricordate i casi di Pistoia, ricordate la vicenda di Rignano Flaminio. E chi rilancia, per una maggiore sicurezza ci vorrebbero le telecamere negli asili nido. Allora, voi vorreste le telecamere come deterrente per eventuali violenze contro i bimbi negli asili nido? Votate, questo è il nostro sondaggio, parleremo di questa vicenda alle 8:30, il sondaggio su radio24.it. Ed ora la lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 15 novembre, la politica con il ritorno di fatto, le prime dichiarazioni pubbliche di Silvio Berlusconi, che ha detto: se c'è la maggioranza si può andare avanti, se no si può anche sciogliere una sola Camera. E questo è il tema che fa discutere, il tema politico del giorno. Al voto solo per la Camera, per il Corriere. Elezioni solo per la Camera, Repubblica. La Stampa, il Premier, fiducia o al voto, c'è chi come l'Unità mette Camera sua con la foto di Montecitorio e chi come il Giornale mette è tornato Berlusconi, il cavaliere cavalca la crisi. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata nell'edizione del lunedì alle piccole e medie imprese. Nelle imprese ordini corti, segnali positivi per il 2011 da meccanica, calzature e alimentare. Io voglio partire nelle mie consuete segnalazioni dalle parole di una persona che vi invito ad ascoltare molto attentamente. L'avete vista nel suo volto straordinario. Aung San Suu Kyi è stata liberata dopo tanti anni di prigionia ai domiciliari in Birmania. Sentite che cosa ha detto nella sua prima conferenza stampa riportata da Raimondo Bultrini su Repubblica, pagina 15. Non sono venuta qui a spiegarvi i programmi politici, perché prima devo sentire quello che avete da dire voi. Quali sono i problemi della gente? Voi li sapete certo meglio di me, che sono stata rinchiusa per tanti anni. D'ora in poi lavoriamo insieme. E ancora, nei confronti del regime militare che l'ha tenuta agli arresti in tutti questi anni, non serbo rancore né spirito di vendetta, sono per la riconciliazione nazionale. La democrazia non è il frutto del lavoro di una persona sola. E qui si riferisce al capo del regime, Tan Shui, il generale Tan Shui. E ancora, ha la forza per invocare la riconciliazione? È possibile, se sapranno tutti rispettare il popolo come molti esponenti del regime hanno mostrato rispetto durante la prigionia, e non invece bastonarlo perché non ha voce e potere. Parole di Aung San Suu Kyi a me ricordano nettamente quelle di Nelson Mandela, che al primo discorso pubblico dopo tanti anni di prigionia disse: ed ora lavoriamo insieme per la riconciliazione nazionale. Non lascerò il mio paese, con l'aiuto del popolo la democrazia potrà trionfare. Aung San Suu Kyi, le prime parole, anche stupita, perché ha preso in mano un telefonino per la prima volta e ha detto: non sapevo neanche da che parte girarlo per farmi sentire dall'altro capo del telefono. La seconda segnalazione viene dal Giornale. Gianmica Lessin, a pagina 15, racconta l'ultimo euro spreco in arrivo all'Europa sprecona. Due sedi non bastano. L'Unione Europea, già accusata di spendere troppo per mantenere i suoi palazzi e spostare deputati e portaborse tra il Belgio e la Francia, cioè tra Bruxelles e Strasburgo, sorprende tutti. È allo studio una costruzione di un terzo edificio. 1 miliardo di euro, 288.000 metri quadrati, tutto per mettere, racconta Gianmica Lessin, la nuova corte di traduttori, scrivani, azzecca garbugli, chiamata a far da dispendiosa appendice all'Europarlamento e alla Commissione Europea, e dove? Non vicino alle sedi già esistenti, bensì in Lussemburgo, cioè un terzo edificio in una terza località europea. Edificando la nuova sede a Bruxelles, racconta ironicamente Gianmica Lessin, avremmo, per carità, risparmiato per esempio i 250 euro di rimborso, spese, pasti, sistemazione alberghiera garantite agli efficientissimi e zelanti euroburocrati ogni qualvolta affrontano le 3 ore di viaggio per raggiungere Bruxelles, Oppure rischieremmo di sottrarre alla Biriben Limousine, una compagnia privata specializzata nel trasporto di parlamentari ed euroburocrati, i 4 soldi guadagnati con il contratto da 5 milioni e 250 mila euro per garantire auto blu all'altezza. Avremmo inoltre risparmiato con un severo taglio i 200 milioni di euro spesi per scarrozzare a destra e manca i preziosi rappresentanti europei e i loro insostituibili spicciafaccende. Troppo facile, troppo economico. Meglio sistemarne qualcuno in Lussemburgo, con un altro bel edificio allo studio. Spesa prevista 1 miliardo di euro, 288 mila metri quadrati. In Lussemburgo, all'Europa sprecona, 2 sedi non bastano, questo il giornale a pagina 15. Ci fermiamo con la pubblicità e con il meteo e poi ripartiamo dalla politica e dalla nuova proposta del Premier Berlusconi. In primo piano. La politica oggi è tutta incentrata sull'uscita pubblica ieri di Silvio Berlusconi, che è tornato a parlare, lo ha fatto collegandosi telefonicamente a una convention del Popolo della Libertà, e ha detto la frase che è un po' il tema del giorno, vale a dire: andremo avanti a governare con la fiducia che ci verrà data al Senato e penso anche alla Camera. Se non ci verrà data, andremo a votare per la Camera. Eccola qui la mossa di Berlusconi, il voto solo per la Camera, cioè l'ipotesi che venga sciolto solo uno dei due rami del Parlamento. Un'ipotesi che fa dibattere la politica, non tanto perché non sia prevista, è prevista l'articolo 88 della Costituzione, che recita: il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Quello che ha fatto discutere è proprio questo, cioè che la prerogativa di questa scelta spetta al Capo dello Stato. E infatti il Corriere della Sera, ma anche la Stampa, mette in prima pagina l'imbarazzo del Quirinale, la decisione che spetta al Quirinale di Marzio Breda in prima pagina del Corriere, in trincea, riparandosi dietro lo scudo del silenzio, senza replicare alle pressioni, lasciando parlare gli altri, perché non è il Quirinale che può svolgere considerazioni sulla possibile composizione di un conflitto interno alla maggioranza. Napolitano si limita a ricordare, come ha fatto per tutta l'estate, la Costituzione, in particolare quell'articolo 88 nel quale appunto si stabilisce che il Presidente può sciogliere anche una sola delle Camere. La risposta è laconica ma precisa: ogni decisione relativa a quell'articolo è di esclusiva competenza del Capo dello Stato, che intende esercitarla rigorosamente. Ed ecco quindi le parole che vengono giudicate da Marzio Breda improprie, quelle di Berlusconi, in quanto non è competenza del Presidente del Consiglio suggerire la strada. Gli unici precedenti, racconta poi Breda, sono nel 53-58, si riferiscono al Senato, furono decretati solo per pareggiare la durata in vita dei due rami del Parlamento. Dopodiché non ci fu mai una scelta di questo tipo. Anche per il giornale Berlusconi, il Colle sciolga solo la Camera, tanto che il giornale titola in prima pagina: è tornato Berlusconi, cioè un po' sferzato Berlusconi dagli stessi giornali vicini a lui nei giorni scorsi a dire: torna in sella, fai qualcosa. Ecco il giornale: è tornato Berlusconi, il cavaliere cavalca la crisi, fiducia al Senato, se poi a Montecitorio ci votano contro sciogliamo solo la Camera e torniamo alle urne. Mentre anche per la Stampa, a pagina 3, il Colle infastidito, decide Napolitano. Ci sono anche una raffica di interventi di costituzionalisti, sempre sentiti dalla Stampa, Antonella Rampino, a pagina 3. Il primo è Giovanni Sartori, molto fulminante: e che si fa? Si butta a mare la Camera viva e si resta con quella moritura? Una trovata assurda, via. Questo Giovanni Sartori, ma anche Anna Chimenti ricorda che in questa fase, in un'eventuale crisi, il dominus è il Presidente della Repubblica e dunque non si può leggere la Costituzione a pezzettini. Il caso della crisi di governo è proprio quello in cui entra in scena il dominus, il Presidente della Repubblica. Anche Valerio Nida dice: si potrebbe avere come risultato una maggioranza confliggente, mentre Paolo Armaroli dà una lettura più politica. Paolo Armaroli è un costituzionalista vicino al centrodestra. Ho la sensazione che ricordare l'articolo 88 serva solo a rassicurare i senatori. E infatti la Stampa dà questa lettura: visto che si voterà presto la fiducia sia alla Camera che al Senato, è un modo, come dire, cari senatori, votate votate pure per il governo, tanto il Senato non verrà comunque sciolto. Questa è la lettura politica della stampa. C'è da dire che in genere lunedì ci sono tante interviste, oggi ne registro poche. C'è quella significativa a Stefania Prestigiacomo, il ministro dell'Ambiente, a pagina 3 del Corriere della Sera. Non è traditore chi la pensa diversamente, dice Stefania Prestigiacomo in questa intervista a Felice Cavallaro. Berlusconi contro un eventuale governo tecnico evoca lo spettro della guerra civile. Ovvio che il presidente sia durissimo contro l'ipotesi di un ribaltone, dice Stefania Prestigiacomo. Il popolo di centrodestra non potrebbe digerire una modifica del responso elettorale con un ribaltone parlamentare. Dunque, la strada, secondo il ministro, è questa: o un Berlusconi bis, oppure si va al voto. Eppure gira l'idea di un governo Letta o Tremonti, chiede Cavallaro. Ipotesi che non trova il minimo interesse nemmeno da parte dei presunti candidati. E su invece la possibile candidatura di Marina Berlusconi, la figlia di Berlusconi, so che viene invocata. Potrebbe essere una bellissima novità, una donna veramente in gamba, ma dovrebbe sempre avvenire dopo il ricorso al popolo. E poi c'è questo tema, il tema avanzato anche dal direttore del giornale Sallusti, che ha detto: i topi scappano, perfino la Gelmini o Frattini sarebbero disposti a un governo senza Berlusconi. Sentite come risponde la Prestigiacomo: la libertà di espressione vale per tutti, se uno la pensa diversamente non è un traditore. Gelmini, Frattini e noi della prima ora siamo con Berlusconi nella buona e nella cattiva sorte, il dibattito va considerato in modo positivo. Certo, in momenti difficili possono spuntare tornacontisti, persone disposte a cambiare casacca, ma non mi pare che stia accadendo. Questa l'intervista a Stefania Prestigiacomo sul Corriere della Sera. Sulla questione dei votare solo alla Camera, già i finiani pare abbiano detto di no, a meno così sempre il Corriere racconta, no dai finiani, i finiani che oggi dovrebbero uscire dall'esecutivo. Tra l'altro, attenzione, vi segnalo anche, per chi magari vuole addentrarsi un po' su quello che succederà al Parlamento, a pagina 5, vi segnalo un articolo di Maria Antonietta Calabrò sul Corriere, su quelle che sono poi le tempistiche, perché adesso si voterà la legge di stabilità, che dovrebbe essere approvata alla fine di questa settimana alla Camera, poi passa al Senato. Martedì 23 la Capigruppo fisseranno i tempi di discussione, si parla di almeno 10 giorni, questa è la prassi, e poi dopo ci saranno le votazioni sulla fiducia. Quindi stiamo parlando di una tempistica che arriverà, immagino, già a dicembre sicuramente, primi giorni di dicembre, questo per quel che riguarda i voti dell'eventuale fiducia, anche se già si contano eventuali possibili persone, come sapete, che possono votare da una parte e dall'altra, no? Cioè si fanno già la conta dei famosi 316 alla Camera. Per esempio sul Corriere Daniela Melchiorre, dei Liberal Democratici, che tiene 3 seggi, rappresentante dei 3 seggi, ma fa sapere il Corriere a questo punto anche 3 seggi contano. Ha già deciso: non sosterrò Berlusconi, siamo con i moderati, non voterò la fiducia al governo. Ma da qui a dicembre ne sentiremo delle belle anche di eventuali tentativi di cambiare, di convincere politicamente persone a votare da una parte oppure dall'altra. Vi segnalo anche sul Sole 24 Ore, pagina 16, un interessante articolo di Giuseppe Latour e Francesco Nariello, che analizza qual è la situazione del Parlamento per quel che riguarda intanto le pensioni, che sapete è sempre un tema molto caro da attenzionare. E il primo è questo: in caso di elezioni anticipate, ben 341 tra Camera e Senato non beccheranno la pensione. Perché? Perché da quest'anno, da questa legislatura, bisogna fare 5 anni tutti, non più 2 anni, 6 mesi e un giorno, ma 5 anni interi. Ebbene, quelli che sono alla prima esperienza parlamentare, 341 neofiti, non avrebbero diritto all'assegno. Se poi invece si applicasse la norma voluta dal sindaco di Firenze e dai rottamatori del PD, e cioè 2 legislature e a casa, ebbene, fa sapere il Sole 24 Ore che il tetto dei 2 mandati scatenerebbe una tempesta nella politica. L'UDC, per esempio, il partito di Casini, salverebbe appena il 17% dei suoi deputati, ne perderebbe 29 su 35. Tutti gli altri, quindi, sono diciamo 29, ne hanno fatte più di due legislature. Al Senato il taglio arriverebbe al 28%. In termini assoluti chi perderebbe più pezzi sarebbero il PDL e il PD. Il PDL infatti lascerebbe a casa 241 deputati su 368. 241 deputati del PDL hanno fatto più di due legislature già. Mentre il Partito Democratico non ricandiderebbe 203 deputati su 318. Che ne pensate? Può essere interessante o no? La rottamazione proposta da Renzi, questo tra virgolette. Intanto trovate molto sui giornali della vittoria alle primarie di Milano, che ha scelto Giuliano Pisapia, avvocato Pisapia, ex parlamentare di Rifondazione Comunista vendoliano, e infatti il Corriere titola così: da Milano schiaffo al PD, a sorpresa Pisapia ha battuto l'architetto Stefano Boeri. Mentre la Moratti dovrebbe avere avuto ormai l'investitura del premier. Ieri Berlusconi, collegandosi appunto con Milano, ha anche detto: so che siete tutti lì riuniti e pensate come prepararsi alle prossime elezioni a Milano per sostenere la nostra Letizia, a cui vanno tutti i nostri in bocca al lupo. E dunque è un'investitura vera e propria, anche se per il Corriere della Sera la cautela della Lega, l'ultima parola spetta a Bossi. Mentre l'altro tema di politica che tiene banco, qual è? È quello che stasera c'è Saviano, ci sono Saviano e Fazio, e dunque la presenza confermata di Fini e Bersani. Leggeranno entrambi un elenco separatamente di 3 minuti, un elenco di cosa è di destra e cosa è di sinistra, al quale stanno lavorando gli autori, fa sapere Repubblica da Saviano, Il Giorno di Bersani e Fini. Anche per la stampa, Fini, Bersani, 3 minuti che sconvolgono la RAI. Tanto che ieri Berlusconi ha anche detto: non guardate, non leggete i giornali e non guardate la TV, soprattutto alcuni programmi della TV pubblica. RAI indegna, ha detto come titolo al secolo XIX. Forse non ha usato questo aggettivo indegno, ma poco ci manca. Per l'Unità, pagina 9, Masi, il nemico RAI, chiederà al CDA di chiudere Saviano. Secondo Natalia Lombardo, addirittura l'ipotesi, ormai questa sera passerà così, cioè non è che c'è più possibilità di intervenire. Però pare che al prossimo consiglio di amministrazione, che sarà mercoledì, Masi metterà sul tavolo il caso Fazio Saviano. Un tentativo estremo potrebbe essere quello di chiedere la sospensione delle altre due puntate. Un secondo, più praticabile, è quello di ottenere che il consiglio imponga il riequilibrio, una sorta di par condicio, anche se non siamo in campagna elettorale, però una par condicio con Bossi, che elenca valori e sapori del nord. Questo è un po' ironico, Natalia Lombardo. Il siciliano lombardo, quelli del sud. Mentre per Repubblica addirittura si parla, si vocifera di un Berlusconi tentato questa sera a telefonare in diretta. Oh, risultato: saranno strafelici Fazio e Saviano, perché lo share, l'attenzione, il pubblico, la pubblicità per oggi e per la puntata di questa sera è straassicurata. Il traffico. In primo piano. Nelle imprese, ordini corti. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore di oggi, l'edizione del lunedì dedicata alle piccole e medie imprese. Visibilità ridotta per gli ordini nell'industria manifatturiera italiana, si arriva a 3-6 mesi. Queste sono le difficoltà, no? Soprattutto che cosa pesano, racconta il Sole 24 Ore. Le prospettive del 2011 sono condizionate dalle tensioni valutarie, l'abbiamo visto anche nell'ultimo G20 a Seul, a partire dal dollaro debole, i prezzi ai massimi delle materie prime, la domanda stagnante del mercato interno. I buoni segnali arrivano da quali settori? Da meccanica, chimica, calzature e alimentare. Comunque trovate tutto a pagina 3, il calendario corto per gli ordini alle imprese. Certo, non una buona notizia dopo dell'ottimismo che del primo semestre, che aveva fatto segnare una ripresa del flusso degli ordinativi. Ora l'inversione del ciclo negativo registrato nel 2009 con una diffusa prudenza, no? Gli ordini si fanno a 3-6 mesi. In più è difficile spingersi. Enrico Netti racconta tutti i settori per settori, dall'acciaio alimentare, beni strumentali, calzature, chimica, elettronica, legno arredo, cosa va meglio, cosa va peggio. Lo trovate in una comoda infografica anche a pagina 3 del Sole 24 Ore. Non è economia, non c'entra, ma è diventato un fatto di cronaca. Non è escluso che domani ci occuperemo di questa vicenda di Brescia. Questa vicenda di Brescia, dove da decine di giorni, no, da decine, da una decina di giorni ci sono una serie di immigrati, 4 sono rimasti su una gru abbarbicati nel centro di Brescia, cemento e urina dalla gru, l'attacco degli immigrati. Pagina 19 del Corriere della Sera. Ieri c'è stato anche qualche attimo di tensione, nei giorni scorsi per la verità c'è stati momenti di guerriglia vera e propria. Protestano per il permesso di soggiorno, che a loro dire sono stati truffati, sono irregolari. E protestano da giorni abbarbicate su questa gru, ora rifiutano anche il cibo perché temono che questo cibo sia in qualche modo in questo cibo venga messo del sonnifero, altre sostanze, perché si vuole in qualche modo risolvere la situazione. Hanno lanciato appunto del cemento, hanno gettato anche dell'urina sulla polizia sotto. Per l'unità, a dir la verità, a Brescia domenica di tregua, immigrati stremati sulla gru, ci sono ben due pagine, pagina 16 e 17, mentre il giornale è molto duro in un articolo, dice: in quale paese europeo si tollererebbe una cosa del genere, cioè la richiesta di un eventuale diritto, la rivendicazione di un diritto fatta però in un modo così violento, quell'oltraggio dalla gru che umilia il nostro paese, Salvatore Scarpino a pagina 16. Comunque la pensiate, ripeto, una situazione che sta creando tensione. Tra l'altro ci sono alcuni immigrati anche abbarbicati su una torre a Milano da qualche giorno, però in qualche modo la notizia di Brescia è più ha raccolto più le prime pagine dei giornali. Trovate ancora invece di quella vicenda che è il nostro sondaggio, o meglio da spunto al nostro sondaggio, la vicenda dell'asilo e le presunte violenze all'asilo di Pinerolo. Carezze energiche semmai, botte mai. Parla la direttrice dell'asilo di Pinerolo al Corriere della Sera, pagina 21. Ma che venivano picchiati i bambini, forse accarezzati con energia, botte mai. Allora, la premessa, noi non entreremo nel caso perché, come ci succede in questi casi, non si sa mai dove sia la verità, quindi non vogliamo entrare nella vicenda, però vogliamo parlare, visto che è stata rilanciata questa tematica, quello che qualcuno ha detto: bisognerebbe mettere telecamere negli asili, così stiamo tutti più tranquilli. Che ne pensate? Telecamere negli asili nido per i casi Rignano Flaminio, il caso del Chip e Chop, ve lo ricordate, a Pistoia, ora questo caso a Pinerolo. Tutti presunti, tutti da verificare, però qualcuno dice: mettiamo le telecamere e così non se ne parli più. Votate il sondaggio, ne parleremo poi alle 8.30. Un'ultima segnalazione è una ricerca dalla Gran Bretagna, è in prima pagina di Repubblica, secondo la quale controordine fa bene essere figli unici. 100.000 famiglie esaminate in uno studio. I figli unici sono i più felici. Perché? Beh, perché già da piccoli non litigano i bambini per i giocattoli. Il mio commento è: bah! Voglio chiudere però con la Gazzetta dello Sport, purtroppo la disfatta della Ferrari, ma non dedicherò mezzo secondo alla polemica bassissima Lega, e permettetemi la battuta della Lega che dice ora Montezemolo si dimette, cioè strumentalizzare politicamente la sconfitta sportiva della Ferrari. Però insomma, arrivando qui io e Peter Bescapè che mi guarda dall'altra parte del vetro e tantissimi milanisti che ieri abbiamo gioito tantissimo, e la devo dire: Milan sei grande, che non sono io ma è Ibrahimovic. Milan sei grande, il titolo di apertura, e lo dico sorridendo, della Gazzetta dello Sport, il GR 24 mattino. L'intervista. 8:23 minuti, eccoci qua. Il protagonista della nostra intervista oggi è l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Senta, sciogliere solo una delle due camere, certo la Costituzione lo prevede, ma sa che i detrattori dicono già che vuole le elezioni ad personam adesso Berlusconi? Esagerati, perché la Costituzione lo reggono a momenti alterni. Quello che ha fatto arrabbiare qualcuno e dice lo deve decidere Napolitano, non è che gli va suggerita la Costituzione. Beh, perché Napolitano non può essere proposto dal capo del governo una via di uscita da una crisi politica. Se la crisi politica si determina in una sola Camera, non nell'altra, allora è possibile prendere in considerazione questa ipotesi. Questo è quello che ha detto il Presidente. D'altra parte, quando si fanno anche le consultazioni, che si va a fare? Ad ascoltare o a proporre? Quindi lei ci vede nulla di strano, insomma è una via d'uscita legittima. È un'ipotesi. È un'ipotesi. Senta, Giorgio Stracquadanio lo sappiamo, è un fedelissimo di Berlusconi, lo conferma tutti i giorni, lo dice, anzi, in un clima in cui qualcuno dice, e anche, non so, Giuliano Ferrara, ecco, un clima da, com'è che ha detto, si sta come l'autunno, no? Ungaretti, soldati. Sì. Lei vede un po' i topi che scappano, qualcun altro ha evocato questa immagine? No, i topi che scappano non ci sono, guardi, perché l'ho detto anche oggi in un'intervista al Corriere della Sera, basta andare in giro e parlare con la gente, si vede che, anzi, questi momenti di difficoltà aumentano il consenso intorno alla figura del Premier, perché il suo è un rapporto diretto con l'elettorato. È chiaro che se invece noi ci stiamo a guardare nel perimetro di quello che chiamiamo il teatrino della politica, beh, allora questo può sembrare tutto diverso dalla realtà. Ma guardi, io ricordo che quando arrivò Berlusconi all'inizio e propose la sua candidatura nel 94, qualcuno disse va, prenderà l'8%, il 10% con questo discorso. Dopodiché è stato dato per finito dal 95 a oggi almeno 7-8 volte. E tutte 7-8 volte poi è successo qualcosa di molto diverso che lo ha riproposto come il protagonista della scena politica di questi ultimi 20 anni. Lei però in questa intervista al Corriere della Sera dice che qualcuno all'interno, almeno Freddino, si sta dimostrando. Chi, per no, le interviste vanno lette. No, io l'ho letta, per esempio. Certo, ma vanno lette sapendole leggere. Perché se lei legge i nomi di quelli a cui do più la sferza, sì, sono tutti i miei amici più stretti. Che diciamolo chi sono? Alfano, Frattini, Gelmini, Carfagna, sono tutti, se lei nota, sono tutti, vengono da Forza Italia, sono tutti della generazione più giovane e sono tutti i miei più amici più vicini. C'è un modo per dire, ehi, che state facendo? Li chiamo alle armi. Li chiamo alle armi, che state facendo? Esatto, forza ragazzi, muoviamoci. Perché lei ha notato che c'è qualche... cos'è da parte di queste quattro persone che lei ha citato? Per molti è prudenza. Prudenza. Timore di fare mosse sbagliate che possano compromettere l'azione del Premier. Per altri può essere, come posso dire... per certi versi sottovalutazione del tentativo che c'è in corso, pensando che sia una crisi politica qualunque e che possa essere superata con un nuovo accordo politico. Siccome è una convinzione diversa sulla scelta che ha fatto Gianfranco Fini e ce l'ho avuta sin dall'inizio, cioè io ho sempre pensato che Gianfranco Fini sia entrato nel PDL con il retro pensiero di lanciare sin da subito un po' ostile sulla guida di quel partito e sulla guida del centrodestra. Beh, a questo punto, siccome i fatti tendono a darmi ragione, vorrei che tutti fossero consapevoli di questo e di fronte a un po' ostile non si può reagire trattando con chi te l'ha lanciata, come dire, mettendo il proprio pacchetto azionario un po' di qua, un po' di là. Senta, le chiedo al volo per concludere, guerra civile, questa espressione che qualcuno ha evocato, è brutta questa, eh? Sì, è brutta perché intanto, come dire, non è un'espressione che ha a che fare con la situazione che abbiamo, ma non l'ha evocata il Premier, ma l'ha evocata qualcuno sui giornali. Però ho notato che quando, come si dice, Bossi disse che c'erano 300.000 bergamaschi pronti a scendere a Roma armati, nessuno fece una semplice considerazione. Che non ci sono 300.000 bergamaschi, sì, questo. Bergamo molti meno abitanti, allora bisognerebbe prendere le battute per quello che sono battute. E le iperboli per quello che sono. Ultima se anche cosa... qualcuno nell'entourage del Premier ha detto questa frase, non mi impiccherei. Se uno dice rivoluzione, va bene? È la stessa cosa, dipende. Ah, la rivoluzione è un tratto di nobiltà, no? Dipende. No, rivoluzione politica è un'altra cosa, guerra civile è proprio. Allora uno dice, è una battuta. Scoppierà comunque la rivoluzione, scoppierà la guerra civile, scoppierà la guerra, sarà un inferno. Politicamente. Ma in che caso, qual era il caso di scuola? Il caso di scuola, quello in cui ci fosse un golpe per cui il voto dei direttori viene stracciato e vanno al governo tutti gli sconfitti. Certo. Con l'aiuto di una piccolissima frazione di che stava con i vincitori. Quel governo tecnico, che però è una soluzione, vabbè, come quello dello scioglimento di una Camera. Non lo chiamiamo tecnico, chiamiamolo col nome giusto. Ribaltone. Il governo del vitalizio. Del vitalizio, che però è una soluzione costituzionalmente prevista, come quella dell'una Camera da sciogliere. Insomma. Mi perdoni, costituzionalmente prevista mica tanto, perché ci cozzerebbe con l'articolo 1. Quello che dice che la sovranità appartiene al popolo, che esercita nei formi, nel modo previsto dalla Costituzione. E non è che essere deputati di maggioranza o di opposizione sia del tutto irrilevante ai fini costituzionali. Ce ne sono stati però lì. Però mi devo fermare, onorevole. Va bene. La ringrazio. Buona giornata, grazie, ovviamente. Giorgio Stanquadagno del Popolo della Libertà. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi il nostro sondaggio sugli asili nido e vorreste le telecamere per controllare che cosa succede negli asili nido? Questo è il nostro sondaggio. 24 mattino. Alle 8:35 minuti a Pinerolo, fatto di cronaca, è stato sequestrato, messo sotto sequestro un asilo nido dove si sarebbero consumati ripetuti maltrattamenti sui bambini. Tanto che qualcuno torna alla proposta vecchia. Ma perché non mettiamo delle belle telecamere negli asili per controllare? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Voi sareste d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio che vi invito a votare su radio24.it. Il 63% dei nostri ascoltatori per ora dicono di sì. Se volete invece 800 24 00 24, siamo qui in diretta. Non è che parleremo del caso, il caso c'è la magistratura. Intanto però io voglio salutare il sindaco di Pinerolo, Paolo Covato. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Intanto le chiedo due cose. Com'è il clima? Non è un bel motivo per finire sui giornali, immagino, come sindaco. No, però oggi piove. Però... il clima nella città invece è, direi, civile, la città si interroga, lei fa riferimento al clima rispetto al caso. Certo. Quindi, no, la città è una, cioè, Pinerolo è una città civile, si interroga, ma ha la pazienza, veramente ha la pazienza di attendere che su questa vicenda la magistratura faccia luce. Quindi... L'altra domanda, sindaco, che tutti si pongono è: questo asilo era tutto in regola, cioè per quel che riguarda la struttura, le persone che ci lavoravano? Questo asilo era tutto in regola. A Pinerolo esiste una commissione di vigilanza gestita dalla SL e quindi periodicamente veniva vigilato, però capisce che si verificano gli standard di personale, si vanno a guardare gli alimenti se sono non scaduti, cioè si fa un'ispezione periodicamente che dura 1-2 ore. Ma non si può vedere la gestione quotidiana. Certo, questo sicuramente. Tra l'altro io voglio salutare il professor Massimo Ammanniti, che insegna psicopatologia dello sviluppo alla Sapienza di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Così come la senatrice Maria Burani Procaccini del Popolo della Libertà. È giusto, Popolo della Libertà, senatrice? Pronto? Buongiorno a voi. Sì, sì. È giusto il Popolo della Libertà? No, perché non ho controllato. Lei è del Popolo della Libertà. È giusto. Ma è meglio specificarlo, perché di questi tempi è meglio dire. Si occupa da tanti anni di questi temi. Soprattutto questi. Professor Ammanniti, intanto io le chiedo, è chiaro che nessuno ci possiamo interrogare se quello che è successo è vero. Adesso ci sono le due versioni, è vero o non è vero. Ci sono i genitori che difendono le maestre, i genitori che invece dicono: ecco, il mio bambino da tanto tempo urlava, piangeva, non voleva, appena si avvicinava a quel cancello non voleva avvicinarsi. Ecco, cosa dobbiamo, dal punto di vista dei bambini, cercare di capire, come analizzare per esempio le testimonianze? È difficile? Ma intanto io vorrei premettere una cosa, che attorno a questa vicenda di Pinerolo si è creato una specie di amplificazione mediatica, prima di sapere se queste testimonianze sono vere o meno, per cui credo che questo possa creare un allarme ingiustificato, e questo mi preoccupa per un motivo, perché giustamente i genitori che mandano i bambini in un asilo, in una scuola materna, si cominciano ad allarmare che cosa può succedere all'interno e così via. Mi sembra che il problema sia molto complesso. Intanto che i bambini, quando vanno ad un asilo, soprattutto in una certa fase, non ci vogliano andare, non si vogliano staccare dai genitori. Dico, sono aspetti che normale. Noi conosciamo e fanno parte dei tempi e delle difficoltà dell'inserimento, per cui che un bambino pianga di per sé non vuol dire che all'interno avvengano fatti negativi di abuso, eccetera, e questo credo sia un primo aspetto. Un secondo aspetto che mi allarma è legato a questa proposta di mettere delle telecamere all'interno. Lei come la vede? Ma io la vedo così, che se mettiamo delle telecamere all'interno creiamo una dinamica completamente negativa, perché gli insegnanti verranno completamente delegittimati in un momento proprio storico in cui spesso le famiglie si schierano contro gli insegnanti, togliendo qualsiasi autorità agli insegnanti. E poi immaginiamo che cosa potrebbe succedere con delle telecamere e delle videoregistrazioni. Sì. I genitori starebbero sempre lì a controllare come si comporta il bambino, come si comporta l'insegnante. E diventa una situazione che avrebbe delle conseguenze negative, aumentando l'apprensione dei genitori e riducendo l'autorevolezza degli insegnanti. Sì, sarebbe quasi una sorta di grande fratello continuo in cui i genitori sono lì a casa a controllare, a vedere. Però magari... Vi rendete conto che cosa questo può comportare in termini di rapporto fra genitori e figli? Dico, se poi i genitori non hanno fiducia negli insegnanti, viene meno una delle collaborazioni, il sodalizio fondamentale fra la famiglia e la scuola. Anche se io credo che la proposta sia, come dire, non che queste immagini vengano poi proiettate in nessun modo, ma che vengano registrate come nelle telecamere a circuito interno, e poi se dovesse succedere un qualcosa di contestato si fa vedere la registrazione. Però vorrei su questo anche la senatrice Burani Procaccini, che ne pensa dell'idea. Penso, guardi, esattamente con il professor Ammaniti, cioè io ritengo che potrebbe essere una volontà delle maestre dell'asilo. Oh, qui stiamo parlando di un nido, però, quindi stiamo parlando di 0-3 anni. 0-3 anni, cioè, certo. Una situazione un po' diversa da quella di un normale asilo, che riguarda i bambini in età prescolare. E dove quindi anche le testimonianze sono ancora più difficili da capire, perché un bambino di un anno. Bambini, voglio dire, ovviamente. Certo. Però il discorso delle telecamere interne ad un asilo o a un nido o a una scuola è comunque un discorso che per me non va fatto, perché non possiamo trasformarci in stato di polizia anche per queste cose. Ha ragione, ci vuole un rapporto di fiducia, ci vuole un rapporto assolutamente formativo anche dei genitori che lasciano il bambino, e devono avere la sicurezza che questo bambino viene tenuto nel migliore dei modi possibili. Però c'è il fatto che il genitore non deve pensare che lascia il bambino come se lasciasse una valigia. Il genitore non solo deve accertarsi prima della qualità, della tipologia di quel nido, e che deve fare? Ma deve anche fare in modo che di controllare, perché il genitore che arriva magari all'improvviso e così con gentilezza, magari con una scusa, magari porta dei pasticcini o dei dolcetti alle maestre o ai bambini, eccetera. Dice fare l'improvvisato. Ecco, io infatti sono per l'asilo innanzitutto di prossimità, più vicino possibile ai genitori, perché i genitori devono vivere, anche la mamma deve vivere questa fase di inserimento del bambino come cosa naturale, e il bambino la deve vivere come un'altra stanza della casa. E questo è il discorso, cioè non ci si può dimenticare che l'hai messo lì, l'hai depositato e a quel punto è finita. Questo sì, però senatrice, fare l'improvvisata, io per esempio negli asili dei miei figli non si può portare un pasticcino, perché la ASL, se no, per carità, tutto confezionato. Adesso io ho detto il pasticcino per dire l'atteggiamento anche di collaborazione, di amicizia, di prossimità che il genitore deve avere con le maestre e sue dell'asilo, cioè ci deve essere una forma di interscambio di amicizia e conoscenza, perché soltanto così si ristabilisce un rapporto, anche ce lo dirà il professor Ammaniti, psicologicamente corretto, tra i due e con il bambino, tra i due elementi, famiglia e insegnanti e bambino stesso. Sì. Invece una fredda telecamera diventa un modo per irrigidire i rapporti. Sì, può essere un elemento di sicurezza in più domani che ci fosse, eccetera, però qui veramente ci stiamo trasformando in uno stato di persone che non credono più in se stesse. Viceversa, ecco, adesso mi rifaccio un pochino a quello che diceva il sindaco. Benissimo, gli asili anche privati, no, che fanno quindi un servizio pubblico, sono sottoposti ad una serie di regole a controlli che vengono fatti dal servizio cosiddetto sociosanitario, che non è soltanto andare a vedere la qualità della pappetta, è anche vedere la qualità dell'assistenza che viene fornita ai bambini. Ma immagino che questi controlli però siano in qualche modo annunciati, non è che uno, non so, non credo che l'ASL possa fare un'improvvisata, andare lì a vedere com'è la situazione. In ogni caso, prima di andare a informazioni sul traffico, mi lasciate salutare Natasha Rooms, buongiorno. Buongiorno. Sento dei bambini sottofondo, no? È titolare della struttura Belli e Ribelli, scuola materna di Potenza, perché lì le telecamere le avete messe. Dopo le informazioni sul traffico ci spiega perché. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Addirittura Gianluca d'Arezzo ci scrive via sms e dice: colleghiamo le telecamere alle stazioni di carabinieri e polizia, così se qualcosa non andrà bene interverranno. Ma Gianluca, ma in che mondo dobbiamo vivere? Voglio dire. Natasha Rooms, eccoci qua, titolare della struttura Belli e Ribelli, scuola materna di Potenza. Voi le telecamere le avete messe? La linea telefonica però a Potenza, ci sente? Rettificare che non siamo scuola materna, siamo un centro per l'infanzia perfetto. E lavoriamo con bambini da piccolissimi fino a 10 anni. Benissimo, le avete messe allora, perché? La nostra idea è nata con quest'idea di lavorare con i bambini, non per un fatto di controllo, anche se comunque è un fatto che ci aiuta comunque a tutelarci, sia come struttura sia noi come maestri. Questa idea è nata vedendo proprio che i genitori oggi hanno proprio gli orari più sballati, sia le mamme che i papà, e stanno pochissimo tempo, riescono a condividere pochissimo tempo con i propri figli. Allora, abbiamo la possibilità che queste ore più attive del bambino, cioè soprattutto anche la mattina, loro possano anche condividere i lavori che fanno questi bambini dentro la nostra struttura. Cioè, l'idea nasce proprio di questo. Ma mi spieghi, queste immagini vengono, cioè voi le registrate e poi le mettete a disposizione dei genitori, oppure sono possono essere viste vengono rilevate proprio in diretta in tempo reale? Esatto, allora noi abbiamo un sistema, abbiamo un programma che viene dato al genitore e questo lo installa sul proprio computer. Noi diamo una password che comunque perfetto, è variabile per perfetto. Evitare comunque sì che la vedano solo i genitori dei bambini, ecco. Esatto, soltanto il genitore del bambino e proprio il bambino che si trova nella struttura. Ecco perché si cambia la password. Allora loro quando vogliono accendono il computer e si collegano in diretta e vedono in diretta cosa sta facendo il proprio figlio. Non è proprio assolutamente vero che poi questo crea un disagio con le maestre, come il detto ben dice, chi non la deve non la teme. Chi fa il suo lavoro è un lavoro poi bellissimo, un lavoro da mostrare, un lavoro da condividere con i genitori, soprattutto in quell'età così tenera che sono questi bambini di un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni che non hanno voce in capitolo e anche quando le hanno non sono quasi credibili, perché di questo ne abbiamo avuto prove con quei bambini, quel che è successo che avevano portato chiaro, fuori i bambini si sa, ma non bisogna avere la paura di... I bambini mentono, ma è il bello di essere bambini, cioè i bambini dicono le bugie. Dicono, imparano molto presto a dire le bugie, ma bisogna riconoscere che molte volte tra tutte quelle bugie c'è sempre qualcosa di verità. Dicono le bugie e dicono la verità, il problema è distinguere tra i due. Non so, sia sindaco Covato, voi a Pinerolo, cioè lei come la vede da primo cittadino l'idea delle telecamere? Io la vedo raccontando l'esperienza dei nostri nidi comunali. Sì. Innanzitutto le dico, abbiamo un rapporto educatori bambini che è di 1 a 4 per i lattanti e di 1 a 6 per gli altri bambini, e questo è un elemento di qualità. La seconda cosa, noi abbiamo un comitato di partecipazione, ma non da adesso, da 30 anni, quindi un comitato di partecipazione dei genitori alla gestione del nido, che intervengono, intanto possono intervenire e entrare nel nido quanto vogliono senza sotterfugi, voglio dire, è disponibile e aperto, questa è la modalità che abbiamo, partecipano al progetto educativo del nido, insomma c'è questo elemento di partecipazione. Detto questo, per quanto alle cose che venivano dette dal professor Ammaniti e anche dalla senatrice Procaccini, io mi trovo molto d'accordo con loro, perché io credo che ci sia necessità da una parte di prevenire gli abusi, e quindi, da un'altra parte di non affidare all'occhio tecnologico soltanto, cioè vogliamo riportare l'umano, vogliamo creare anche una cultura dell'infanzia dove un po' di più ci dedichiamo ai bambini, vogliamo creare una cultura della genitorialità in cui è l'occhio dell'adulto, che sia operatore, che sia genitore, che cerca i segnali dei bambini, che stia un pochettino attento ai bambini. Ecco, allora penso che il modello che noi abbiamo nei nidi pubblici, quello della partecipazione, ma la partecipazione anche alle diete, noi prepariamo i pasti nei nidi pubblici di Pinerolo in struttura, e anche lì c'è un dietista ovviamente che stabilisce le tabelle dietologiche e poi le consegniamo ai genitori, ma anche quando un genitore ci dice che per suo motivo questo un dato pasto non va bene, a me pare che organizzare i nidi così sia un elemento in cui, come dire, si rafforza una cultura. Sì, cioè, esatto, una cultura di coinvolgimento, ma non dell'occhio tecnologico solo. Tra l'altro, mi dice la nostra Antonella Migliaccio che chiamano tutti e sono a favore delle telecamere, la maggior parte. Sentiamo Paola da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Che dice? Io appunto sono favorevole e lo vorrei estendere a tutti gli istituti scolastici, non solo il nido, ma materna, elementare. Ma perché? Questo perché? Perché vuol sapere cosa succede, per paura? No, no, no, non perché io voglio sapere, io voglio controllare. Ma in caso in cui appunto un momento debba essere messo in discussione, anche io, genitore, devo intervenire e correggere mio figlio. Perché in alcuni casi le insegnanti si trovano in momenti molto difficili da affrontare. E crede che una telecamera l'aiuti, cioè le faccia vedere, certo, che suo figlio fa quello? Perché sennò non se ne rende conto. Figlio, perché molte volte il genitore ha ogni espediente per giustificare l'azione sbagliata del proprio figlio. Paola capisce che quindi il problema, se vuole, sta a monte, cioè nel senso che appunto crede che una telecamera immortalando suo figlio la farebbe cambiare opinione su chi è suo figlio. Riguarda me, sicuramente io ascolto anche quello che dice l'insegnante, però per molti genitori secondo me è molto importante. Va bene, grazie. Domenico da Roma, buongiorno. Domenico. Sulla stessa linea di parola, infatti. Sì. Io sono un insegnante e un papà, ho un figlio di 36 anni e insegno all'istituto professionale alberghiero. Guardi, non ho alcuna remora a voler mettere anche le telecamere, diciamo, negli istituti superiori, appunto per quello che diceva, non per far, come dire, cambiare atteggiamento dei ragazzi, ma a volte per sensibilizzare anche i genitori che probabilmente non immaginano cosa i ragazzi possono combinare. Vabbè. Quindi non per una esperienza punitiva, ma solo per un'informazione in più per i genitori. Va bene, grazie. Io 20 secondi, Natasha Rooms, voi le avete messe, c'è qualcuno che ha protestato? Qualcuno che dice? Assolutamente no, sono tutti a favore, c'è una grandissima richiesta per quello. C'è una grandissima richiesta, c'è sì, nessuno sì, che dice no. Io non anche voglio... Anche perché sono sicura che queste cose succedono ancora e succedono in tantissime scuole, per di più sfido a mettere anche le forze dell'ordine, se potessero fare anche queste telecamere, anche così per caso, sono guarda, disposta quasi a giurare che queste cose succedono anche da chi meno lo immaginiamo. Ah beh, ma immagino da tutti, però chissà se la storia delle telecamere, la via delle telecamere sia quella migliore. Intanto io vi ringrazio, mi devo fermare qui, grazie alla senatrice Burani Procaccini, al sindaco Covato di Pinerolo, al professor Ammaniti e a Natasha Rooms. Con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, vi diamo la linea a Oscar Giannino e ci troviamo domattina 7:20.